Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci al secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Allora, oggi parliamo di pausa pranzo che per molti, soprattutto chi lavora distante da casa, chi lavora a turno, insomma, è una cosa abituale. Però cosa succede? C'è la crisi e anche la pausa pranzo si modifica. Cosa succede? Sì, come hai detto te, le abitudini degli italiani si stanno modificando anche nella pausa pranzo, complice soprattutto la crisi, ma anche complice quelle che sono un po' le nuove abitudini che le persone hanno, ed è quella di saltare, come hai detto, la pausa pranzo. Perché? Perché scopriamo che da un'indagine che ha redatto la Coldiretti un po' di tempo fa, di cui ha dato diffusione di dati, è emerso come il 32% degli italiani tende a sostituire il pranzo, inteso come lo concepiamo, lo concepevamo una volta, che era dal primo al secondo alla frutta, ma si riduce a mangiare sostanzialmente un piatto di pasta, perché il piatto di pasta risulta anche la pietanza più economica. Economico è certamente ancora nutriente, ovviamente, però c'è addirittura chi la salta, non magari per scelta così dietetica, ma per scelta economica. Certo, il 32%, come ha detto, è un dato molto, molto importante, già se pensiamo che si riduce a mangiare solamente pasta, perché comunque fondamentalmente è un problema economico. La pasta sappiamo che costa poco, con 70-80 centesimi compri un pacco da mezzo chilo e una persona può mangiare anche 3-4 volte a pranzo. Poi addirittura c'è, come ha detto, chi la salta perché comunque non ha tempo o non ha più l'abitudine di potersi fermare a mangiare, tant'è che addirittura il 9% degli italiani detto che mangia solo un frutto, uno yogurt o un gelato in certi periodi chiaramente dell'anno, ma c'è addirittura un 4% che dichiara di non fare neanche uno spuntino, niente. E l'abbandono del pranzo addirittura è confermato per il 24% degli italiani, che hanno dichiarato di limitarsi a mangiare magari solamente un secondo, solamente un contorno. Adesso vanno di moda anche molto le insalatone, soprattutto per le ragazze in certi periodi della stagione. Comunque, in un ragionamento generale, bisogna prendere atto di quella che è una tradizione che ci contraddistinguevamo noi rispetto a molti altri paesi, e quella che comunque stiamo perdendo un po' una bella abitudine per effetto, come detto, soprattutto della crisi. I nostri nonni dicevano: i sacchi vuoti non stanno in piedi, perché per lavorare bisogna, per lavorare bene, insomma, bisogna anche nutrirsi, nutrire lo stomaco, che poi a sua volta nutre il cervello. Certo, un conto è magari fare lavori pesanti, un conto è fare un lavoro d'ufficio dove comunque, insomma, un po' di nutrimento al nostro corpo bisogna pur darlo, no? Io sono favorevolissimo alla pausa pranzo e credo che sia indispensabile anche sostenerla, perché la pausa pranzo comunque è anche un periodo di pausa entro il quale c'è un recupero delle energie psicofisiche di una persona che magari è impegnata per tante ore. Addirittura la direttiva europea del 2003, che l'Italia come sempre è stata l'ultima a recepire, obbliga il datore di lavoro a fare in modo che un dipendente non lavori più di 6 ore consecutivi e abbia sempre un'adeguata pausa volta proprio al ripristino delle energie psicofisiche. È anche vero che la pausa pranzo comunque è un momento che può essere anche utilizzato per socializzare tra colleghi, che magari molte volte in certe tipologie di lavoro si ha poco tempo per poterlo fare. Però, come detto, ritengo che sia una cosa molto importante e credo che andarla a ritrattare non è certamente un passo in avanti. Da ultimo dico che molti addirittura preferiscono non pranzare, e vediamo come molte persone anche in questo momento di crisi, come detto, utilizzano i buoni spesa, i buoni pasto per poter sopperire a quello che può essere un esborso di denaro quando si fanno le spese in certi negozi convenzionati. Per cui io preferisco dire che approfittare di fare un pasto non è mai ed è sempre il miglior investimento rispetto a quello di saltarlo e magari recuperare quei pochi euro per poter o da destinare per altre cose. Sì, per i buoni pasto tu li hai citati, per chi li ha, perché non tutti i lavoratori dipendenti hanno i buoni pasto a disposizione, quindi lì magari si tratta anche di contrattazione aziendale diversa. Certo, in questo caso tu dicevi con una pasta condita magari in modi anche fantasiosi, con davvero pochissima spesa ci può permettere di mangiare per alcuni giorni. Poi appunto un pasto completo ha anche bisogno di tempo, ovviamente, e spesso sul posto di lavoro il tempo è quello che manca. Certo, ricordiamo, Mirko, che comunque c'è l'obbligo del datore di lavoro garantire sempre una pausa. Come abbiamo detto, il lavoratore non può lavorare più di 6 ore consecutive, ma il lavoratore ha anche il diritto ad avere una pausa a pranzo, e non è pensabile che una persona possa lavorare 8 ore senza mangiare. Come detto, la pasta è un elemento molto economico che permette alla persona con circa un euro poter fare un pasto, perché basta che uno si mangia un etto e mezzo, 2 etti di pasta, la arricchisce con un bel sugo di pomodoro una volta, ragù con un altro, e tra tutte le variabili che possono esistere, certamente permette alla persona di poter, insomma, riempirsi bene. Ecco, tutti sanno ormai che comunque l'importante è anche variegare il menù, non limitarsi solo a questo. Notiamo anche come d'estate molti preferiscono mangiarsi un gelato anziché un piatto di pasta, però sai, molto dipende anche dal tipo di lavoro che una persona fa, perché come detto c'è chi fa un lavoro e ha bisogno di consumare, c'è chi ne fa un altro e magari può stare più leggero, ma non rinunciamo a quella che è una sana abitudine, che comunque ha visto come beneficiare i lavoratori per effetto di tante lotte, insomma, sindacali, che come hai detto i nostri nonni nel suo tempo hanno fatto, e che adesso sarebbe un peccato dover dissipare. E noi quello che ci auguriamo tutti i lavoratori, perché ovviamente il lavoro ce l'ha, e sperando che possa tornare per più persone possibili. Un saluto allora all'Adico e ci sentiamo la settimana prossima con altri 2 argomenti. Grazie Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.